E dopo la pasta bruciata c'è previsto. Sono regolare. Cazzo, ma io sono venuto di pasticca, salvatemi già. dice Marino che si scatta, mi vuoi ubriare, metto di mortadella, fanno di panini, su manzano, che... No, ma c'ha ragione, lo dice tu, devi sembrare. Scegli quello dove è più profumato. Così dopo ti sono meglio. Vai, buon cuore, vai, vai. Ciao, Rupino. Da voi, cazzo, hanno una visina più, dottore, cazzo, non vedete più fatto. Dico, ma non mangiata, come vedi fuggendo. Vai, buon cuore, vai. Sì, non tu, buon cuore. Eh? Però voi ti fai sopra con il muro, eh? Vabbè. Vai Luca Pugioni, 26, 18, 26, nostro cuocuomane. Vai, ma dici un brodino di mamma, tu zitta, eh? Zitta, c'è una Nannini, eh? Vabbè. Cosa vuoi qua, cosa vuoi? Ma sei venuto a sniffare. Eh? Ehi, dimmi. Senti, saluti la Daniele, Natalia. Grazie. Anche a Gianni. Daniele... Daniele, cavagare. Daniele è invisibile, dai, buon nome. Se lo vuoi accompagnare. È invisibile. Ehi, salutalo, salutalo. Invisibile, perché? Perché se no poi me lo spuzzano. Lo chiamano in tanti, così. Ah, questa ragazza che lo segue, lui... E lui non è proprio la vita di questa ragazza. Luca! Luca! Ma te lo facciamo conoscere! Luca! Giorgia! Fagli gli auguri da parte mia a lui e a tutta la famiglia, se non ci vediamo, dici! Ciao, ma ti sente, già sono su Skype, e lui cosa cambia a te e famiglia? Grazie! Tutto è cambiato al 100%, la ragazza! Da parte mia Luca a fare gli auguri. Cappa. Anda bene, io adesso mi prima vado su Facebook a fare gli auguri a tutti. Mi metto in bacchetta e scrivo auguri a tutti gli amici di Facebook. Non basta. Io il pensiero. Ho mandato la cartolina a tutti. Che bravo esci. Io l'ho mandata solo a un'amica e basta, perché me l'ha mandata lì a me. Ho preso il suo sito, sono entrato e gliel'ho mandata lì. Un po' di odio verso le donne. Ma non sarà il mio o lui? Un po' di odio. Odio verso le donne, ai. Ai, ai, ai. Natalia, non da ruta, Ci ha rotto le scatole di queste ragazze in Facebook. Si è rotto le scatole delle ragazze? No, di queste di Facebook, dico. Fate soppallose. Comandi, mi si è avvisato. Vabbè dai signori, io vi saluto che domani me ne devo alzare presto e devo andare a fare visita al centro dottore che ha preparato, non solo di non farci lavorare, di più si fa di lavorare la crisi di passato. Ecco, paratoria, allora. Buonanotte, per domani, buonanotte. Ce lo raccontiamo le prossime, dai. Ciao, ciao, buonanotte. Cappagliamo. Vabbè, domani fatti sentire, no? Te ne vediamo un po' per quella cosa. E vediamo come sono messo, dai, ti faccio sapere. Se sì, mi lasciavo di là, ti avevo abbigliato io, adesso ci sono pensato. Sei andato direttamente io. Se ti dà giudizio, ci dico qui e fate tutto tu. Vabbè dai, già ci sentiamo domani mattina, di mistero, già ti telefono se ho 5 minuti liberi, oppure se sono lì di servizio non c'è problema. Vabbè, ciao. Gli auguriamo una buona notte anche a lui. Ciao Gianni, buonanotte. telefono. Cambia, cambia e copia. Ehi, ehi, ehi, non c'è problema. Andava, vabbè, riprendi, Sì, io mi trattengo un altro po', poi dopo chiudo perché domani è zucca. Un altro pochettino comunque mi trattengo, dai. Ok, ok, ok, Luca, ci sei. E fai. Roba buona, bene. La roba vecchia. Mamma mia. Vabbè, non reggo tu subito, mangiando cazzo. Ciao, avanti, Antonietta. E beh, oggi molto lavorato. Già, ma con la gratta. Scaricare un pochettino, dai, quelle che non ci servivano, e partire subito a consegnare. Ne ho finita più delle 8:30, pure di più. Quando c'è lui è tutte le ore che prende, no? Ma poi anche perché aveva cominciato un pochino in ritardo, e poi ce n'era un bel da fare, un bel. Sto correndo come un matto. Lui non è tocca, non volevo. Perché quando non c'ero io, chi è che lo porta? Meno male. Ma quello che ha scaricato vuoti, Che vuoti? Lui era pieno, mi ha fatto il carico di guardare un mattone. Ma il deposito non è tenente voi, è vero? Visto che c'era il camion che se ne stava andando. No, non ci ho fatto un caso. Si è passato dall'altra parte, passa, c'è il cancello. E esci. E poi c'è stata la parte della strada. Ha scaricato sia il camion e sia lui, è arrivato con motocarro. Vedete tutte? Non tutte, non le abbiamo vendute tutte, ma sicuramente domani si passano in tutte. Sì, è meglio uscire. È stato fatto già un carico dalla mattina, poi la sera ne è stato fatto un altro. Anzi, un altro dal camion e un altro da presi due. Quindi sono bastate, dai. E dopo quando finisci chi ti accompagna? Lui? Ma ne torno io, mi tra. No, oggi è questo babbo. Cavagano. È un casino, eh. Forse questo periodo si blocca forte. Vabbè. È che tu non c'è roba alimentare, panettoni, roba così, sino io. Già lo so, ma non abbiamo niente in quella roba. Lui c'è il buon. Regalo per il cappuccia, capito? Fanno anche 80-90 cesti. Già lo so. C'è una ditta che l'anno scorso abbiamo portato due viaggi di furgone e un viaggio di 100. 12 cesti. Allora sì, vedi che si fa per dipendere. Io penso anche per i fornitori, per i clienti, dai. I clienti. Clienti speciali, non è una ditta grossa, no. Trattasi di una concessionaria. Concessionaria di macchina? La gara. Che ho visto? Una concessionaria di macchine scaricare, cioè prendendo molto scolette in faccia, una cosa del genere. Lì da quel da salumiere che c'è lì a te. Avranno prestato il furgone, non lo so. Sta ricando così in appartamento, che c'è? che li fa quello lì, mette la roba, roba buona, capì? A me lo stai dicendo, non portiamo nulla. No, te l'ho fatto pure quella qualità. Che ha pagato? Ma siccome tutto qua lo fa, solamente li ha comprati da lui un po'. Come mi sto caricando il furgone? No, non lo so. Che Dio ci sia, loro li fanno, noi li portiamo pure. Non so che cosa ne succede. E sicuramente ne prendono anche da diversi posti. Ma non lo so. Non lo so. Guarda, i nostri cestini li conosci perché c'è il fiocco grande sopra, è fatto tipo fiocco nel trasparente. Sì. No, non li ho mai visti come li fate. Ho visto quelli della città di Sassari, sono col fiocco rosso, mi sembra. Ma sono già pronti quelli, non li facciamo proprio artigianali. So come li fanno. Ma ci sono quelli che arrivano già con la scatola e sono già pronti. Che hanno il fiocco tutto schiacciato, poi tu quando li tieni fuori devi rifar rimanere il fiocco, devi allargarlo e cose. E poi ci sono quelli che facciamo noi artigianali. Questo è quello lì che li fa col... quello di Gattempio sono artigianali, quello sono sicuro, la sita di Sassari non lo so come lo fa. Cosa, te non ho capito nulla che ci abbiamo detto, qua che stavano dicendo cose, non capivo cosa dice. Vero, la sita di Sassari si fa, non lo so come le fa, quello di quello, la salumeria che c'è in Gattempio, si fa, si dice un artigianale proprio, voi ci puoi credere, perché lo sto facendo. Che noi li facciamo artigianali, e poi viene un cliente e dice ci voglio mettere questo, questo e quest'altro, questo me lo fate pagare. Noi li facciamo il conto del cestino, il conto dell'involucro, di tutto qua, la confezione, e poi diciamo preso lo tontare. Però ho avuto poche volte, una volta solo a Natale, perché fanno niente. Quanto me ne vado, se no mi siamo assiva, chiudiamo e buonanotte. Non ce la faccio più così, che mi stai dicendo di chiudere? Devo andare a letto, sto scattando, non è coricarsi. Ci sentiamo davanti a buonanotte. Vabbè, non ci sono problemi, dai, adesso ci sentiamo anche domani, non c'è problema, ciao, buono, se deve dormire, va a dormire, ciao. Ciao.